415. Lenticchie passate per contorno. Questo si chiamerebbe alla francese purée di lenticchie, ma il Rigutini ci avverte che la vera parola italiana è passato, applicabile ad ogni specie di legumi, le patate inclusive. Dunque, per fare un passato e non un presente con le lenticchie, mettetele a cuocere nell'acqua con un pezzetto di burro e quando saranno cotte ma non spappolate, passatele per istaccio. Fate un battutino di cipolla, poca però perché non si deve sentire, prezzemolo, sedano e carota. Mettetelo al fuoco con burro quanto basta e quando sarà ben rosolato, fermatelo con un ramaiuolo di brodo, che può anche essere quello di grassato del Coteghino. Colatelo e servitevi di quel sugo per dar sapore al passato, non dimenticando il sale e il pepe, ed avvertite che bene resti sodo il più possibile.